Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Può una giovane professionista di 31 anni con due lauree e una posizione di alto profilo nel settore del marketing in Gran Bretagna non trovare uno straccio di opportunità in Italia nonostante sia seriamente intenzionata a rientrare? È la domanda, se volete, paradossale, alla quale cercheremo di fornire oggi una risposta nel corso della 12ª puntata della nostra inchiesta a tappe e per i 5 continenti sulla nuova emigrazione italiana. Sembra che trovare lavoro in Italia per un giovane sia diventata una chimera per pochissimi privilegiati. Mi sembra insensato che per chi è ambizioso, determinato e pieno di energia che si veda le ali tarpate da un sistema che invece premia la mediocrità e la raccomandazione. Quindi è abbastanza desolante assistere a un tale spreco di energie e risorse. Poi l'Italia in questo modo si troverà sempre a rivestire il ruolo di fanalino di coda in Europa. Elena Janni, 31enne, è marketing manager per la Royal Bank of Scotland a Londra. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. In apertura ricordiamo gli allarmanti dati sulla disoccupazione giovanile in Italia, sempre molto alta. Secondo l'ultimo rapporto Eurostat, ben il 28,2% degli under 25 nel bel paese sono senza lavoro. Siamo 8 punti sopra la media europea. Peggio di noi fanno solo nell'ordine Irlanda 28,6%, Slovacchia 33,2% e Spagna 47%. Fanno meglio di noi Olanda, solo 7,3% di giovani disoccupati, Austria 10% e Germania 10,2%. La disoccupazione giovanile è certamente figlia della crisi internazionale, ma anche di un atteggiamento tutto italiano, così il ministro della gioventù Giorgia Meloni. Da un lato, dice la Meloni, si respinge il contributo di idee e di forza che proviene dalle nuove generazioni, dall'altro lo si sfrutta cinicamente con rapporti di lavoro occasionali che non permettono di maturare esperienze e attitudini, sostiene la Meloni. Intanto 8 italiani su 10 vedono nero o grigio per il futuro occupazionale dei giovani, solo 1 su 3 crede che gli studi aiutino molto per affermarsi, è quanto emerge da un'indagine del mensile Job. Serve un salto culturale, l'Italia è un paese con l'ascensore sociale bloccato che non premia la meritocrazia e non valorizza le nuove leve, non a caso tanti se ne vanno all'estero, così Sabria Sharif, responsabile del coordinamento giovani della CISL di Milano. Più posti di lavoro nel Veneto con le risorse recuperate dal federalismo. In Basilicata partirà un impegno concreto contro la fuga dei cervelli, mentre la Lombardia estenderà la dote formativa agli atipici e l'Emilia-Romagna dichiarerà lotta agli infortuni sul lavoro. Sono alcune delle novità in materia di occupazione contenute nei programmi dei 13 neogovernatori eletti a fine marzo. Ad analizzarli l'Abitalia. Scade il 15 aprile il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al corso di formazione imprenditoriale Origini, che si svolgerà a Trieste dal 19 luglio. È destinato a 15 figli o discendenti di emigrati dal Friuli Venezia Giulia di età tra i 23 e i 35 anni. Info su www.mib.edu. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un principal economist per il segretariato dello European Systemic Risk Board a Francoforte collaborerà con il comitato tecnico, scadenza per i CV 23 aprile, info su www.ecb.int. Uno strategy team economics senior associate per la PricewaterhouseCoopers a Londra lavorerà su progetti di consulenza nel settore economico, scadenza per i CV 17 settembre, info su ukjobs.pwc.com. Un fisico alla CERN di Ginevra, dove si occuperà di esperimenti sulle particelle, richiesto il dottorato, scadenza per i CV 24 giugno, info su erti.cern.ch. Infine un direttore studi per il Dipartimento delle Relazioni Internazionali al Collegio d'Europa di Bruges, scadenza per i CV 25 aprile, info su www.coleurope.eu. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta a Londra, nel cuore di una city colpita duramente dalla crisi economica, ma nonostante questo ancora in grado di offrire importanti opportunità lavorative ai nostri migliori giovani professionisti. Nome: Elena. Cognome. Gianni. Età. 31. Città di origine. Firenze. Studi. Laurea in lettere e laurea in economia aziendale presso l'Università di Firenze, poi diploma in marketing e specializzazione da traduttrice professionista a Londra e adesso master in marketing in corso sempre a Londra. Anno in cui hai lasciato l'Italia. Fine 2003. Per andare dove? Prima a Leeds, nel nord Inghilterra per un anno e poi a Londra per 5. Perché? Per fare un'esperienza post-formativa, per mettermi alla prova e incrementare le possibilità di una carriera nel mio ramo di interesse. Quale lavoro svolge attualmente? Sono marketing manager per Royal Bank of Scotland. Dove? A Londra, nella City. Tornerai? Sì, e spero anche a breve. Vorrei tornare per restare, ma l'impresa è più ardua di quel che mi aspettassi. There's a room in a house in a street, in a manor, in a borough that's part of a city that is regarded as London. Ray Davies, London Song, un bel tour nella capitale inglese in musica per introdurre la storia di oggi che ci porta nella City. Da più di un anno sto cercando lavoro in Italia senza alcun successo. Ingenuamente avevo sempre pensato che nel momento in cui avessi deciso di rientrare, la mia solita esperienza a Londra sarebbe stata apprezzata e non avrei avuto difficoltà a trovare un impiego. Non sapevo quanto avessi torto. La mia mezz'ora giornaliera passata sui siti a inviare curricula alle aziende non ha dato alcun frutto in più di un anno. Elena, io ho scelto di iniziare con questo tuo personale sfogo a giovanitalenti@radio24.it per chiederti: riconosci nell'Italia quel paese nel quale pensavi di vivere una volta, quel paese europeo, potremmo dire? No, assolutamente. Sembra che trovare lavoro in Italia per un giovane sia diventata una chimera per pochissimi privilegiati. Mi sembra insensato che per chi è ambizioso, determinato e pieno di energia, che si veda le ali tarpate da un sistema che invece premia la mediocrità e la raccomandazione. Quindi è abbastanza desolante assistere a un tale spreco di energie e risorse. Poi, come dicevi, l'Italia in questo modo si troverà sempre a rivestire il ruolo di fanalino di coda in Europa. Parole pesanti. Io intanto do il benvenuto a Franco Giacomazzi, presidente dell'Associazione Italiana Marketing, con cui parleremo tra poco. Buongiorno. Buongiorno, tornava. Allora Elena, iniziamo a parlare con te del percorso che ti ha portato nel Regno Unito, partendo proprio dai tuoi studi. Sì, dunque, la mia storia di emigrante comincia con un percorso accademico abbastanza peculiare. Mi iscrivo a lettere in realtà con le idee poco chiare. Capisco che sono più incline a materie economiche, ma piuttosto che abbandonare decido di ritagliarmi un corso di studi ad hoc con esami fuori facoltà. Questo percorso mi aiuta a capire che desidero un ruolo aziendale magari volto sull'estero, però tutti mi avvertono ancora prima di laurearmi che sarà impresa impossibile con una laurea umanistica. Infatti, cominciando a inviare curriculum a tappeto, non vedo alcuna risposta. Così decido di rimboccarmi le maniche e il giorno dopo la laurea in lettere mi ritrovo sui banchi, stavolta della facoltà di economia. Qui prendo la laurea di primo livello e decido di lanciarmi nel mondo del marketing, che ho scoperto essere per me la materia perfetta, in quanto coniuga un po' scienze umanistiche, sociali ed economiche. Tu comunque appunto ti lanci, potremmo dire, prendi armi e bagagli, ti butti nel mondo del marketing, riesci anche a trovare un'opportunità in Italia che ti dà diciamo quella prima carica per poi andare all'estero, perché in qualche modo tu un'esperienza all'estero la volevi fare e approdi tra l'altro nel Regno Unito in gruppi importanti, prima un'azienda che produce materiali ortodontici, un'azienda americana a Leeds e poi addirittura all'Economist Group, o sbaglio? Esatto, sono stata fortunata da trovare un lavoro in marketing ancora prima di laurearmi in Italia, una piccola azienda fiorentina. Quell'esperienza mi ha dato appunto lo slancio per tentare il salto all'estero che già da tempo meditavo. Decido per l'Inghilterra perché è un paese all'avanguardia sia per gli studi accademici che la pratica del marketing e in effetti non vengo smentita. Trovo immediatamente lavoro ancora prima di trasferirmi nell'azienda americana. Poi di lì passo al gruppo Economist come telemarketing executive temporanea e poi rapidamente vengo promossa con contratto a tempo indeterminato. Dopodiché tu ti trasferisci alla Royal Bank of Scotland, che è uno dei maggiori istituti di credito nel Regno Unito, e lo fai con un programma molto particolare, il Graduate Scheme. Raccontaci cos'è e se esiste effettivamente un corrispettivo in Italia. Il Graduate Scheme è un programma per giovani laureati che sono disponibili in tutte le maggiori aziende qui nel Regno Unito, dove si offre per i laureati cosiddetti ad alto potenziale un un percorso fast track verso posizioni manageriali. Il mio primo incarico è in un grande centro mutui a Londra per Royal Bank of Scotland ed è in qualità di manager di un team di 18 persone che spaziano dall'età di 20 anni ai 60 anni. È una responsabilità del genere non penso proprio che sarebbe pensabile in Italia per un neolaureato e oltretutto pensa che i neolaureati inglesi sono anche molto più giovani dei nostri. Alcuni dei miei colleghi appena usciti dall'università avevano soltanto 22 anni. E a 28 sono già senior manager. Sì, molti sì, nessuno se ne meraviglia perché con 6 anni di esperienza alle spalle, a ritmo spesso di una promozione l'anno, non è affatto inusuale, ma sono posizioni sempre molto meritate, non mi è mai capitato di vedere qualcuno che ricoprisse un ruolo che non gli spettasse, e sono giovani molto brillanti. La selezione, da quello che ho capito, da quello che ci hai scritto, avviene su base meramente meritocratica. Sì, assolutamente, qui non c'è alcuna discriminazione di età, di sesso, tanto più che qui è illegale chiedere l'età a un colloquio perché potrebbe portare a discriminazioni. Ora tu, tra l'altro, ti stai ulteriormente specializzando, sei associata per il Chartered Institute of Marketing, stai facendo anche un master in strategic marketing, ma esattamente di cosa ti occupi? Ecco, per spiegare proprio in poche parole il tuo lavoro. Io lavoro nell'area Business Commercial Corporate Banking, quindi mi occupo di servizi per le imprese, dalle piccole medie alle grandi corporate. Servizi finanziari di qualsiasi tipo, dai prestiti, mutui, servizi per l'export. In quanto marketer il mio ruolo è quello di agevolare l'incontro fra la domanda e l'offerta, quindi sono un po' il ponte tra il prodotto e le vendite. Toglienci una curiosità però, Elena. Questa sì. Crisi economica sta in qualche modo rendendo difficile anche per un giovane talento, se così possiamo dire, inserirsi nel mondo professionale o della City in Inghilterra? Penso proprio di sì. Da quel che sento e vedo da amici italiani recentemente sbarcati, devo dire che il contesto è molto cambiato da quello in cui sono approdata io 6 anni fa. Mi rendo conto che la competizione sia molto molto alta e i posti sempre meno. Quindi anche qui si risente della difficoltà. Però se sei bravo e meriti, vai avanti. Sì, assolutamente. Questo parametro non l'abbiamo ancora cancellato, per fortuna. No. Io, se posso, vorrei leggere alcune risposte che ti hanno dato qui dall'Italia quando hai provato, tu ormai da un anno stai cercando di rientrare, e che ti hanno dato alcuni uffici del personale. Signorina, non saprei come collocare un curriculum come il suo. Oppure, mi dispiace, ma lei è troppo giovane perché noi possiamo affidarle lo stesso tipo di ruolo che ricopre a Londra, e tu ricordi che in Inghilterra è illegale chiedere l'età a un candidato. Oppure ancora, sa, il mercato italiano non è flessibile come quello inglese, non può pretendere di trovare lavoro in marketing in altri settori se lei proviene dal marketing di ambito finanziario. Addirittura un headhunter ti ha chiesto quali difficoltà hai incontrato a affermarsi da donna e giovane in un ambiente di stampo così fortemente maschile, e la tua risposta è stata: bah, io veramente in Inghilterra di difficoltà in quanto donna non ne ho avute. È possibile che il tuo paese, quando tu ti offri con tutte le tue competenze, il tuo background accumulato, ti risponda così? Te l'aspettavi? Non me l'aspettavo. Probabilmente sarò stata ingenua, ma pensavo che avrei trovato, beh, non dico le porte spalancate, ma almeno buone opportunità per far fruttare quel che avevo appreso, i miei talenti qua in Inghilterra. Quindi direi un panorama decisamente poco incoraggiante, soprattutto perché mi ci sto scontrando ormai da più di un anno e quindi è abbastanza frustrante. Sì, tu tra l'altro in una email che hai scritto a giovanitalenti@radio24.it dici: scontrarmi con la chiusura, la rigidità, l'inaccessibilità di un sistema in cui avevo sperato di venire ben accolta con il mio bagaglio di esperienza a far fruttare è frustrante e doloroso. Ma questo lo vedi anche in alcuni tuoi colleghi stranieri che magari cercano di tornare in patria? No, assolutamente. Anzi, qui le esperienze all'estero vengono assolutamente valutate in maniera egregia. Vedo colleghi che partecipano a secondment, per esempio negli Stati Uniti o in Europa per 6 mesi, un anno, e al ritorno di solito si vedono sempre premiati con promozioni. Come ti sembra il mercato del lavoro in Italia per i giovani? Molto difficile, se non impossibile. Mi sembra appunto di una lampada di cui non ho la chiave di accesso e mi sembra soprattutto incredibile che esistano ancora canali privilegiati e che ancora ci si debba scontrare con la rigidità e la chiusura di certi pregiudizi, l'età, il sesso, il certo percorso accademico. Qui per esempio il tipo di laurea non è affatto una discriminante in senso negativo, piuttosto è un passaporto di credibilità. Per esempio, se io sono laureata in lettere e voglio entrare in banca, non c'è assolutamente problema, si valutano background di tutti i tipi, o se sono un chimico e voglio fare il giornalista finanziario. Mi piace questa ricchezza e questa flessibilità. Sì, insomma, se lo so fare e magari non ho esattamente la laurea corrispondente, c'è una flessibilità dall'altra parte che mi permette di farlo. Un'ultima domanda in un flash. Elena, domanda di rito, come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Cosa cambieresti e come? Il panorama non è dei più incoraggianti, se devo essere sincera mi trovo sempre spiazzata a dover rispondere alle domande sarcastiche degli inglesi quando mi chiedono dell'Italia. E la situazione è difficile specialmente per i giovani, ci sarebbero tante cose da cambiare e vorrei prendere spunto dalla lezione anglosassone per proporne un paio. Prima di tutto l'insegnamento universitario, ci vorrebbe meno teoria e più pratica. Poi un'altra cosa, il concetto di stage che qui è praticamente sconosciuto. Le grandi aziende aprono le porte ai giovani per esperienze di lavoro durante le vacanze estive e questo è uno strumento ottimo per farsi conoscere e apprezzare. Quindi direi in generale la parola d'ordine qui è, per tutte le cose, flessibilità, apertura mentale e considerazione alla persona. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Elena Ianni, 31enne marketing manager per l'area Business, Commercial and Corporate Banking alla Royal Bank of Scotland, uno dei maggiori istituti di credito britannici. Alle spalle Elena ha due lauree in Italia, una brillante carriera professionale oltremanica, davanti a sé nel presente e nell'immediato futuro una incredibile difficoltà a far valere le stesse competenze in Italia per trovare un lavoro di pari livello. Franco Giacomazzi, presidente dell'Associazione Italiana Marketing e professore di marketing industriale al Politecnico di Milano. Allora, cos'è sbagliato qui? Elena o il sistema Italia, se possiamo dire? Il nostro paese ha sicuramente dei passi avanti da compiere sotto certi punti di vista, ma ha anche poi delle imprese di grande eccellenza, sia nel mercato dei beni industriali che quelli dei beni di consumo. Capisco la difficoltà della dottoressa, soprattutto in questo momento dove effettivamente più che assumere purtroppo si perdono posti di lavoro. Quindi va tenuto conto di questo contesto estremamente difficile. Per quanto riguarda così, un paragone sulla base insomma, della mia esperienza tra diciamo, il marketing manager straniero e quella è la cultura nostra, la cultura italiana, io mi sentirei di dire questo: la cultura italiana è molto più attenta, devo dire anche più brava, al tema della comunicazione. Sono bravissimi nel comunicare, advertising, e però secondo me c'è meno attenzione culturale, mi lasci dire così, per quanto riguarda l'aspetto quantitativo. Elena, c'è una domanda che vorresti porre al professor Giacomazzi? Vorrei chiedere al professore un consiglio pratico per chi come me si è formato alla professione all'estero e adesso desidera far fruttare in Italia i propri talenti. Quali sono le competenze e i canali su cui far leva? A mio parere altro non c'è da fare che insistere nel lanciare curriculum. Questo è quello che dico anche ai miei studenti. Tra l'altro, fortunatamente i nostri studenti, quelli che escono dal gestionale politecnico, trovano lavoro con relativa facilità, tenuto conto anche di questo contesto. Professore, c'è una cosa che devo dire mi colpisce, ma non solo sentendo parlare Elena, ma anche tanti altri professionisti italiani emigrati, giovani, anche di altri settori, la facilità, rapidità di progressione, anche se ventenni all'estero. Cioè, Elena a 30 anni gestiva già un team di 18 persone. In Italia perché questo non è possibile? Questo è un tema che tocca, a mio parere, la cultura del paese. Assieme diciamo, a questa caratteristica trovate, per esempio, da parte così, anche dei nostri giovani, la scarsa attenzione alla conoscenza delle lingue. Questo è un tema di fondo, cioè a mio parere oggi un'esperienza internazionale deve essere a mio parere un must. Ogni ragazzo dovrebbe tentare un'esperienza all'estero perché siamo europei. Ecco, però loro vanno all'estero, poi cercano di tornare e non trovano canali per entrare, diventa un po' paradossale, no? Beh, insomma, si può andare anche temporaneamente all'estero. Il tema della dottoressa è un tema un po' particolare perché è arrivato a un livello abbastanza elevato, manageriamente parlando, e il trovare posti di elevato livello in tempi brevi non è poi così facile, perché non dimentichiamo che molto spesso le aziende tendono a creare delle carriere dall'interno, poi giusto o sbagliato dipende dalle professionalità che hanno, quindi lo dico come dato di fatto, quindi capisco che più si è elevati di livello meno difficile, meno è facile trovare. Qualcosa sta cambiando, professore, anche nella nostra cultura di selezione? Sì, perché il paese si evolve, insomma, e quindi qualcosa sta cambiando sicuramente, c'è maggiore sensibilità. Io credo che anche che le associazioni professionali, come quella che io ho il piacere di presiedere, stiano giocando un ruolo. Certamente, diciamo, il significato, il peso, a mio parere, di una funzione marketing in molte aziende del nostro paese non è così forte come altrove. Ecco, ad esempio, il fatto che molte agenzie si titolano con marketing e comunicazione, anzi comunicazione e marketing, a mio parere derubrica un po' la rotondità del ruolo di un marketing manager. E confonde manager, il ruolo. E confonde un po' il ruolo. Ecco, questo è un tema, a mio parere, molto delicato. Grazie al professor Giacomazzi, presidente di AISM, Associazione Italiana Marketing. Un'ultima domanda in un flash a Elena Ianni, domanda anche questa a diritto. Quale consiglio daresti a un tuo giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie d'uscita, anche a un espatrio? Due rapidissimi consigli. Il primo è tanta ricerca, perché solo comprendendo i meccanismi del paese di destinazione vi potrete muovere con una direzione. E parlate con chi ha fatto l'esperienza prima di voi o con i giovani del posto, perché serve moltissimo. E infine l'ultimo consiglio è fate le valigie e soprattutto metteteci dentro tanto spirito di adattamento, perché non sarà facile, specialmente per noi italiani che cresciamo in famiglie così protettive, però dobbiamo diventare persone indipendenti e crearci altre reti di supporto, e sicuramente le conquiste sul lavoro poi verranno. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova emigrazione. Oggi ospitiamo Aldo Mencaraglia, ideatore di Italians in Fuga, uno dei siti internet di riferimento per la nuova emigrazione dei giovani professionisti. Aldo vive in Australia. Italians in Fuga è nato un paio di anni fa, mi sono reso conto dopo 20 anni all'estero di essere stato molto fortunato, quindi volevo semplicemente aiutare altri italiani che stanno pensando di emigrare, semplicemente condividendo la mia esperienza e quello che ho imparato negli ultimi 20 anni. Cosa trova, diciamo, un visitatore di italiansinfuga.com? Quali servizi, tra virgolette, offri? In primo luogo la mia esperienza personale, quindi in 20 anni io ho lavorato all'estero, ho cambiato lavoro, ho trovato lavoro, ho vissuto in Inghilterra, in Cina, Taiwan, adesso sono in Australia e quindi semplicemente voglio rendere pubblica la mia esperienza in modo che si impari sia soprattutto i lati positivi che i lati negativi dell'emigrazione. Poi sto cercando di intervistare altri italiani, perché ovviamente io non sono l'unico all'estero, e semplicemente condividere la loro esperienza ed imparare da loro e da tutti quelli che hanno deciso di emigrare all'estero. Il tuo è uno dei blog, devo dire, più quotati e più famosi degli italiani all'estero che si raccontano e che in qualche modo cercano di aiutare anche dei futuri espatriandi. Che tipo di profili, che tipo di storie hai incontrato in questi anni di italiansinfuga.com? Sinceramente un po' di tutte. Ci sono gli studenti della quarta superiore che vanno a studiare in Cina, come ci sono gli emigranti di 50 anni fa che sono partiti su una nave e la classica valigia di cartone per andare in Australia e crearsi una vita nuova. La maggior parte ovviamente al momento d'oggi è quella dei laureati, neolaureati, quelli che hanno appena iniziato a lavorare, quindi stiamo parlando della generazione che va dai 25, 35, 40 anni, che sta facendo un po' di fatica a trovare un futuro in Italia, quindi decide di emigrare. Questo è un trend in crescita, secondo te? Sì, senz'altro, soprattutto visto che adesso, secondo me, l'immigrazione sta diventando più facile perché c'è più libertà di movimento, il talento globale si muove più facilmente e quindi gli italiani che non riescono a trovare uno sbocco in Italia senz'altro considerano l'estero come un'alternativa. Come trovare il primo lavoro all'estero, come trovare un dottorato all'estero, questi sono alcuni dei consigli che dai sulla homepage di italiansinfuga.com. Quali sono le aree dove dai maggiori informazioni? Semplicemente quelle dove io ho un'esperienza diretta. Io ho studiato all'estero, università all'estero, quindi tratto tutta la questione università, la mia esperienza e quella di altri, e poi tutta la questione lavorativa, tipo appunto, come detto, partendo dal primo lavoro e poi proseguendo la propria carriera negli altri lavori, cercando di far capire quale sia la realtà vera dell'estero e cercando di far capire che non è tutto rose e fiori, è dura, però impegnandosi si riescono a raggiungere risultati. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.italiansinfuga.com. E prima di chiudere questa puntata di Giovani Talenti, apriamo lo spazio Intern Active, una rubrica di confronto online per dare voce a chi di voi è espatriato oppure intende intervenire nelle discussioni che lanceremo settimanalmente. La discussione della scorsa settimana era: siete soddisfatti del modo in cui vengono selezionati i giovani professionisti in Italia? Queste le vostre risposte. Stefano, troppo spesso il mondo del lavoro in Italia si è nascosto dietro la scusa della crisi, costringendo noi neolaureati, desiderosi di metterci in gioco, ma purtroppo senza quella famosa esperienza pluriennale alle spalle, a lasciare famiglia e amici e ad andare a metterci in gioco all'estero. La Cina, da questo punto di vista, costituisce lo scenario ideale, un mercato in rapida espansione che offre opportunità di carriera senza eguali. Sapere che ancora oggi, per giovani come me, esiste la possibilità di entrare nel mondo del lavoro dalla porta principale senza dover passare da concorsi truccati e tirocini infiniti rappresenta sicuramente uno stimolo a continuare. Così Stefano. Luciano, mi sembra che sia nella media come nella grande azienda più sei capace e più resti immobile. Spesso il ragionamento è: perché spostare qualcuno che sa fare bene il proprio lavoro? Se lo si sposta, chi è che poi svolge quei compiti? Nelle piccole imprese invece il termine carriera non è proprio presente nel dizionario. Così Luciano. Questa settimana vi lanciamo una nuova provocazione. Ritenete che il sistema Italia abbandoni i suoi migliori giovani professionisti all'estero e tenda ad alzare barriere verso il loro rientro, quasi ostacolandolo, anziché costruire ponti d'oro per offrire loro posizioni competitive che consentano a questa elite generazionale di fare rientro anche per contribuire allo sviluppo del paese? E se così fosse, è corretto parlare di un vero e proprio atteggiamento suicida da parte del nostro paese? Per contattarci potete scrivere a giovanitalenti@radio24.it oppure ci potete cercare su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Esiste anche un gruppo sul portale professionale LinkedIn chiamato La Fuga dei Talenti, dove rilanceremo settimanalmente la discussione. E finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto i vostri contributi online, vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 15, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.